Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Nel derby di ieri sera si è materializzato in maniera persino eccessiva quel che i milanisti speravano e soprattutto gli interisti temevano fin da fine estate, insomma, quando si cominciò a parlare di Ibrahimovic di ritorno a Milano, ma sulla sponda rossonera. Perché al di là di tutto, anzi mi pare al di qua di tutto, la differenza vera l'ha fatta proprio lo svedese, grazie anche a quella scelta discutibile, per me del tutto demenziale, di Benitez, di opporgli un ex calciatore come Materazzi, che non solo ha causato il calcio di rigore decisivo con quell'intervento dal torneo notturno dei bar, ma insomma ha anche dovuto poi soccombere in quel duello rusticano. Mi sono appuntato un minuto 19 del secondo tempo, quando i due giganti e anche un po' energumeni si sono trovati faccia a faccia con il pallone in mezzo a mezz'aria, no? Come in una sfida all'OK Corral. Che poi, mentre Materazzi usciva in barella, Ibrahimovic dovesse uscire per espulsione è del tutto evidente, almeno a me, che mi ostino a pensare che il calcio non sia kung fu. A proposito di kung fu, visto che questa cosa l'ho scritta insomma, sul sito del Sole, nel blog che c'è sul Sole 24 ore eccetera, e quindi sono già arrivate delle reazioni ai commenti, ringrazio Roberto Mascetti che da Inveruno, provincia di Milano, scrive: un appunto, kung fu in cinese significa esercizio eseguito con abilità. Lo sciagurato svedese, scrive appunto questo ascoltatore e lettore, ha usato un colpo da sport da combattimento e non da arte marziale, come è il wushu, che comunemente chiamiamo kung fu. Questa è una roba, una lezione magistralis proprio. I grandi maestri cinesi, per l'appunto, considerano lo sport da combattimento la moderna degenerazione dell'arte marziale. Vabbè, insomma, lasciamoli alle loro appunto arti più o meno marziali, e sentiamo, in attesa dei vostri interventi e dei vostri commenti, sentiamo quelli dei protagonisti, a cominciare da quello in assoluto che il derby lo ha deciso e firmato, Ibrahimovic. È venuto fuori grandissimo, sono morto, squadra ha fatto alla grande, soprattutto secondo tempo con un giocatore meno, abbiamo fatto un grande lavoro e grande sacrificio e abbiamo fatto con un grande cuore. Abbiamo detto che siamo come una squadra e giochiamo come sappiamo. Primo 20 minuti abbiamo creato tante occasioni, abbiamo fatto un gol, potevamo fare sicuro altri due, ma una grande vittoria, un grande lavoro. No, non l'ho fatto apposta, era un duello, ho cercato di prendere pallone ma c'era anche lui e poi siamo andati in duello, però non lo so com'è andato a lui, però scusato, può succedere in calcio. Duello, non so com'è andata a lui. Di sicuro sapeva come era andata 5 anni fa, quando Ibra giocava ancora nella Juve e Materazzi provò, non dico a troncargli la carriera, comunque a fargli molto male, e se non sbaglio lo costrinse anche a uscire, tra l'altro. Poi Materazzi ai derby, insomma, qualche storiella passata c'è, ricordo una roba orribile su Shevchenko per esempio, forse anche una su Inzaghi, insomma, quindi diciamo che il tempo passa per tutti, no? anche per quelli che erano abituati a metterla così sul campo. Ciascuno prima o poi trova il suo. Quello che è curioso indubbiamente è che questi due si erano già trovati nella stessa squadra e avevano convissuto male, dicono quelli che erano a stretto contatto con entrambi, male abbastanza anche durante il periodo di coabitazione e di, come dire, di colleganza con la stessa maglia. Qualche curiosità numerica su questo derby: intanto l'Inter ha perso in casa dopo la bellezza di 46 partite di campionato, l'ultima volta era stato un 1-2 con la Juventus il 22 marzo 2008, quindi stiamo parlando di più di 2 anni e mezzo fa. Il Milan aveva perso gli ultimi 3 derby e dopodiché, come rendimento attuale, il Milan ha vinto 7 delle ultime 8 partite e in questo frattempo ha guadagnato 11 punti sull'Inter. A questo punto l'Inter è, insieme al Bari, la squadra che è più peggiorata di rendimento rispetto a un anno fa, 9 punti in meno. Un numero da un certo punto di vista più incomprensibile e più curioso ancora è il numero 19, perché con l'infortunio di Obi e la ricaduta di Milito, gli infortuni muscolari, soltanto muscolari, dell'Inter in questa stagione sono 19, cioè un po' più di una squadra e mezza. senza poi contare le ricadute, perché Milito credo che sia alla terza. Abbiamo sentito Ibrahimovic, sentiamo sull'altra sponda il racconto di Benitez. Penso che abbiamo visto che la squadra provava, Milan l'ha fatto bene, all'inizio ha cambiato tutto con il calcio di rigore e dopo abbiamo visto che loro facevano tanti falli, Gattuso ha fatto tanti falli, e questo sempre è difficile quando una squadra va 0-1, se l'altra squadra è forte, l'altra squadra lavora con intensità come hanno lavorato loro, non è facile, è una squadra che lavora e che ha qualità, così era difficile controllare la partita. Dopo, quando eravamo 11 contro 10, la squadra penso che ha provato, ha mancato un po' di tranquillità, un po' di pazienza per controllare e fare meglio la scelta, l'ultimo passaggio, no? Chi l'ha presa meno bene di tutti pare essere il presidente Moratti, è stato avvicinato, no, poi adesso ha già parlato secondo le abitudini del lunedì e ho visto alcuni lanci ansa, però la frase più significativa rispetto a quelle che ho letto in questi minuti mi pare essere sempre quella rilasciata ieri sera a caldo ai microfoni di Sky, sentiamo. Un po' tutto, non solo l'approccio. No, l'approccio non è stato un granché, e dopo insomma mi sembra che non abbiamo fatto abbastanza per meritarci di vincere, sì. Non mi sembra che abbiamo subito il gioco del Milan, mi sembra che noi non abbiamo fatto gioco, è cosa diversa, è ancora peggio. E questo introduce un altro concetto, e cioè che il derby è stato meritatamente vinto dal Milan, che insomma, poteva andare diversamente solo se ci fosse stata una maggiore severità arbitrale, ma certamente che il derby è stata una partita mediocre, ma proprio qualitativamente molto, ma molto mediocre. Basterebbe contare i tiri in porta, anzi non tiri in porta che ci sono stati, e ne avremmo grosso modo così una sintesi abbastanza definitiva. Poi di argomenti ce ne sono molti altri, perché ha suscitato molte più chiacchiere di quelle che avrebbe meritato il pareggio tra Juventus e Roma di sabato sera, che da un punto di vista tecnico è stato molto curioso a parer mio, perché a fronte di una superiorità netta, direi, di manovra da parte della Roma, ci sono state in compenso molte, ma molte più occasioni da rete concrete della Juventus. Ora, questo introduce, insomma, introduce due concetti abbastanza interessanti, mi pare, no? E che quindi che la Roma, pur avendo quasi del tutto ritrovato il suo gioco, è sterile in attacco, nonostante una discreta varietà di punte e di fantasisti come Menez, che ha indubbiamente grandi qualità, e dall'altra una squadra che insomma, in teoria è abituata a far gioco, perché le squadre del Neri sono sempre state molto propositive, invece in questa sua versione juventina il modulo del Neri è più attendista, ma è estremamente efficace dal punto di vista realizzativo o comunque creativo di occasioni. Questo era il discorso serio, a parer mio, da fare su Juventus e Roma. Mi pare che Marotta e i suoi l'abbiano subito spostato su un versante molto diverso e molto avvilente, direi, anche per la gratuità delle argomentazioni. D'altra parte, la scorsa settimana avevo letto che Preziosi aveva licenziato Gasperini perché gli serviva un allenatore aziendalista. A parte il fatto che Ballardini fino adesso si è dimostrato aziendalista facendo 6 punti su 6, ma insomma la sensazione è che Marotta, aziendalista lo sia, abbia capito che conviene esserlo fino in fondo in quell'ambiente. Le 14, 15 e 25 secondi, il primo intervallo, le strade. Un altro argomento che poi si svilupperà meglio nei prossimi giorni, perché insomma oggi mi pare che gli echi del campionato insomma abbiano ampiamente la prevalenza dal punto di vista dell'interesse, sono comunque le convocazioni di Prandelli per questa amichevole di mercoledì sera a Klagenfurt, campo neutro, perché siamo in Austria, tra Italia e Romania. Allora non è tanto sulle novità delle convocazioni che si può discutere, anche se indubbiamente Ledesma era previsto, era annunciato, ma insomma è pur sempre un oriundo, quindi come minimo qualche spunto di, così, non dico di polemica, ma di riflessione, di approfondimento ci può stare. Balzaretti, secondo me, il terzino sinistro del Palermo, è un indennizzo, nel senso che poteva già essere chiamato da tempo. Poi c'era Nocchia, il difensore del Genoa in comproprietà con l'Inter, e la novità, un'altra novità assoluta è quella di Diamanti, che indubbiamente è il giocatore di maggior talento del Brescia. Ma non è di tutto questo che si può discutere, bensì della convocazione di Balotelli, che contravviene, secondo me in maniera clamorosa, al codice etico varato dallo stesso Prandelli a inizio avventura, quando disse che il comportamento dei giocatori nei loro club sarebbe stato un parametro determinante per la convocazione o meno. Balotelli è squalificato per 3 giornate nel suo campionato, non si capisce la coerenza di questa scelta di Prandelli. Cominciamo con gli ascoltatori. Andrea, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno maestro, complimenti per la trasmissione, sempre perfetto, veramente, anche come analisi e tutto il resto. Guarda, volevo parlare 2 secondi del derby. Sì. Assolutamente d'accordo praticamente con tutto quello che ha detto. Se posso fare una piccola critica, un omissis che manca. Il vero colpevole di questo derby, che secondo me rappresenta il manifesto della stagione dell'Inter quest'anno, che secondo me è quello che si lamenta oggi, cioè il presidente Massimo Moratti. Perché è vero che, come ha definito lei giustamente, per esempio la scelta di Benitez, quasi demenziale, di schierare un giocatore come Materazzi in un momento del genere, dopo che non aveva praticamente mai giocato tutto l'anno, contro un avversario come Ibrahimovic. Sì. Però è anche vero che secondo me Benitez è sicuramente l'allenatore, tra virgolette, più povero nella storia recente dell'Inter. È un allenatore che in questo momento sta cercando di fare il meglio possibile con risorse, purtroppo per lui, ultra limitate, che ha a disposizione. E secondo me c'è una grave responsabilità da parte della società, perché è vero che le stagioni l'anno scorso Mourinho ha avuto anche tanta fortuna, sia negli episodi in Champions League che soprattutto nella condizione fisica generale. Quest'anno sì, però no, io la seguo Andrea, e mi pare che lei stia facendo un ragionamento più che fondato e più che appropriato, però parte da un presupposto, cioè ignora una parte, cioè che né la società, né Moratti, né Benitez, ma neanche credo il peggior gufo nemico avrebbe potuto immaginare una caterva di infortuni di questo genere. Un conto è mettere in conto, dopo una stagione trionfale e tra l'altro dopo un mondiale che ha visto protagonisti tanti giocatori dell'Inter, un conto è mettere in conto, insomma, prevedere un po' di usura, un po' di fatica supplementare, qualcuno che magari fatica a rientrare con la testa e tutto il resto, ma mettere insieme 30 incidenti a oggi, di cui 19 muscolari, io credo che nessuno potesse immaginare una cosa di questo genere. A quel punto, non potendo immaginare questo, la società forse ha commesso un errore di sopravvalutazione della rosa. Indubbiamente si è comportata controtendenza, no? Rispetto alle ultime stagioni di spendere e spandere, però insomma non poteva immaginare una cosa così, una moria di questa natura. Luciano in linea da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini. Dica. Senta, io volevo intervenire anch'io sul discorso del derby. Non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima. Per me le sue responsabilità le ha Benitez. Guardi, anche nella dichiarazione che ha fatto il dopo partita, dove dice che l'Inter non ha saputo aspettare. Abbiamo fatto il primo tiro in porta dopo 37 minuti. Cioè, voglio dire, il gioco era sempre, veniva sempre sul lato dalla parte sinistra, e mentre la parte destra c'era sempre il campo mezzo vuoto. Un allenatore serve appunto per cambiare anche in partita, cioè le strategie del gioco. Lo so Luciano, però se le alternative in partita non ce l'ha, diventa dura. Io devo ancora capire adesso, per esempio, cosa è successo al momento dell'infortunio di Obi, quando si è visto, io le parlo di TV, ma insomma si è visto un'inquadratura abbastanza surreale a bordo campo, in cui c'era Cambiasso sdraiato per terra, che con un magazziniere, con un massaggiatore che gli sfilava la tuta, visto che quest'altro era già sulle scarpe e con i tacchetti si fa fatica, questo gli ha sfilato la tuta, quindi lui si rialza pronto a entrare e dopo 30 secondi stacco telecamera, si vede entrare Coutinho. Ora lei mi dirà che c'è evidentemente qualche problema di gestione, sì, non c'è dubbio, credo che Benitez sia stia cominciando ad essere un po' travolto dall'insuccesso, perlomeno a giudicare da ieri sera, dalla scelta di Materazzi prima, da questo episodio poi, però è anche vero che un conto è avere le risorse e i titolari a disposizione, un conto è essere sempre lì vicino alla canna del gas a contare chi ancora è sano, chi può rischiare e chi no. Insomma, lo scorso anno se si stirava Thiago Motta, faccio per dire, entrava Cambiasso che ha avuto un turno di riposo, oppure entrava Stankovic, e tutti erano al 100%. Ora si può discutere sulla superiore qualità dell'allenatore vecchio anziché rispetto a quello nuovo. Quello che l'Inter deve discutere urgentemente è chi a Cipicchia li prepara, li allena questi, ma non li allena dal punto di vista tecnico, li allena, li mantiene, li manutiene da un punto di vista fisico, da un punto di vista di allenamento, perché anche ieri sera, altri prima ancora del colpo a Materazzi, ma insomma due giocatori che escono per infortunio muscolare anche ieri, e Milito è alla seconda ricaduta dopo al terzo infortunio, è incredibile. Se poi pensa che l'altro c'ha 18 anni, l'altro che si è stirato, io credo che l'aggettivo inquietante sia approssimato per difetto in un caso del genere. Massimo ha chiamato invece la provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Ganassini. Io, se fosse possibile, vorrei parlare un po' della partita di sabato sera tra Juventus e Roma. Certo. Ho ascoltato il suo intervento, ovviamente sono d'accordo con lei sul fatto che la Roma abbia imposto il proprio gioco, a mio parere ovviamente sterile, perché non ha avuto grandissime occasioni. È vero, verissimo, proprio sterile, come dicevo. Esatto, io però volevo soffermarmi sull'episodio, diciamo, cruciale della partita, no? Ora, premetto, sono tifoso juventino e credo che l'arbitro Rocchi abbia usato buon senso nel far battere il calcio di punizione e quindi la linea il conseguente rigore, eccetera eccetera. Ciò che però mi lascia sempre perplesso è l'atteggiamento di questo giocatore, e mi riferisco ovviamente a Totti, che dopo aver fatto gol, aver acciuffato il pareggio, ha avuto quel gesto, diciamo, nei confronti del pubblico juventino, come dire: state zitti perché io sono forte, io tiro rigore, lo segno. E poi soprattutto quelle continue parolacce nei confronti di Stolari, che probabilmente in un episodio precedente l'aveva un po' stizzito facendo un possesso di palla, diciamo così, mantenendo il pallone tra i piedi senza rinviarlo. Se ne parli veramente poco di questo, ma meno male, ma parliamone meno possibile. Parliamo di pallone se possibile, parliamo di Rizzoli, che era l'arbitro, e non Rocchi. Io non so cosa sia successo. Totti ovviamente si poteva risparmiare anche stavolta questo atteggiamento. Poi io credo che non sia facilissimo resistere per 45 minuti a fischi, berci, lazzi, a prescindere, no? Cioè, c'è chi non fa una piega come Ivra ieri sera, forse perché se li aspettava anche di più. Oddio, non è che Totti si può aspettare mazzi di fiori a Torino, però c'è chi reagisce in un modo e chi in un altro. Cioè, il comportamento di Totti non è sto granché, non è stato questo granché, indubbiamente. Quello di Marotta e dello stesso Del Neri, secondo me, a fine partita, per altri versi nemmeno, ma ripeto, sono input aziendali, e quindi non saprei. Se però lei mi dice parliamone di più, le direi ciò speremo di no, come avrebbe detto il Paron. Parliamone il meno possibile. Villi da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, in merito a Lazio-Napoli di ieri, io volevo dire questo: gli arbitri e gli assistenti di linea possono sbagliare, sono uomini come noi, ma dal momento che esiste una tecnologia in tanti paesi, non capisco perché in Italia non debbano essere aiutati questi signori che possono decidere. Guardi anche che in nessun paese la tecnologia aiuta gli arbitri di calcio, Allora sarebbe il caso di iniziare dall'Italia. Io, in merito alla partita di ieri, lei avrà visto benissimo che il primo gol della Lazio, l'attaccante che ha aggiustato col braccio la palla sul piede sinistro, è assegnato. Guardi Villi, io no, l'ha visto benissimo Mazzarri a 60 metri circa di distanza dalla panchina e nella prospettiva schiacciata. Lei sa che gli allenatori, quando c'è un episodio a loro favore, sono sempre in una prospettiva un po' schiacciata in panchina, che impedisce loro di distinguere bene. Quando invece è un torto o un presunto torto subito, ci vedono benissimo. Ieri Mazzarri ha visto questo, per esempio. Io, avendo visto, essendo un'ora di pranzo, no? Una partita di quell'ora staccata dalle altre, e quindi tutta godibile, si fa per dire, ho visto una partita in cui la Lazio ha dominato abbastanza nettamente il Napoli, ho visto un grande Lavezzi che non è bastato al, perché se mezzo Napoli avesse, si fosse fatto trascinare davvero da Lavezzi, staremmo parlando di un'altra partita, e ho visto quell'episodio su cui secondo me l'arbitro ha valutato bene. Se su quell'episodio lei ritiene che se lei ritiene che quell'episodio sia stato decisivo per la sconfitta del Napoli, le dirò che Mazzarri sta cominciando a fare proseliti anche a Napoli, cosa che comunque non avrebbe fatto fatica a fare. Intervallo, le borse. Allora, vedo già altri ascoltatori collegati da Reggio Emilia, dalla provincia di Lucca e da Napoli. Prima però volevo riassumere questo che ha l'aria in questo momento, in questo preciso momento, ha l'aria di delinearsi come un testa a testa. Lo dico, poi tutto cambia alla velocità della luce, ma insomma, giovedì mattina, dopo il turno infrasettimanale, c'era una classifica bellissima con 6 squadre che avevano ciascuno un proprio gradino contiguo, no, a quelle di chi seguiva. Adesso di colpo si è scavato un solco notevole, perché Milan 26, Lazio 25, e poi si scende fino a 21 per trovare una squadra come il Napoli, e subito dopo ancora Juventus e Roma. E quindi sentiamo come i due allenatori hanno vissuto sia queste partite che questa nuova situazione. Cominciamo dalla seconda in classifica, che però è ripartita con molta, molta autorevolezza, di cui non tutti le facevano credito. La Lazio di Reia. Per una partita sembra che qua succeda la fine del mondo, che ci sono dei drammi ogni volta, e questo non mi sta bene. Chiaro, io ho detto che mi prendo la responsabilità quando faccio certe scelte, ma quando le faccio appropriate, perché sapevo che contro il Cesena, per come ho messo giù la squadra, ero convinto di fare risultato. E oggi sono stati determinanti i giocatori che non hanno giocato Cesena, che ci hanno dato, diciamo, forza, ci hanno dato determinazione, ci hanno dato anche qualità. E è chiaro che devo poi, dalle volte, valutare anche chi scende in campo una partita o l'altra dopo 3 giorni. È vero anche questo, ma non era stato criticato, mi pare, poi Rea si era un pochino presa, perché noi alla nostra età diventiamo un po' permalosetti, magari. Non era tanto il fatto che Rea cambiasse qualche pedina, è che era cambiate troppe a Cesena, un po' questo era il senso delle critiche, ma insomma tutto nella norma. Il commento di Allegri invece alla vittoria nel derby di ieri sera. Ma credo che abbiamo fatto una partita molto, molto buona sotto l'aspetto dell'intensità, anche del gioco. Siamo partiti molto bene, abbiamo creato difficoltà subito all'Inter, molto aggressivi. Siamo stati fino a che eravamo in 11. Poi dopo la squadra si è difesa in modo ordinato, ha concesso solo qualche tiro in porta da lontano all'Inter, e credo che sia una vittoria meritata. Ma c'è stato un momento che sembrava che riuscissimo a fare il 2-0, poi dopo abbiamo un pochino rallentato, abbiamo un pochino cominciato a giocare la palla indietro, un po' troppo sui piedi, e questo era dovuto al fatto anche che avevamo speso abbastanza nella riconquista e nelle ripartenze. Però mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, che ha giocato un buon calcio e soprattutto ha dato segni di una certa solidità. Credo che prima ho usato l'aggettivo aziendalista, per la verità non l'ho usato io, l'ha usato il presidente del Genoa, Preziosi, presentando Ballardini pochi giorni fa. Beh, non si può dire che le scelte di Allegri siano molto aziendaliste, quelle delle ultime uscite, soprattutto di ieri sera. Sono scelte coraggiose, però sono scelte che hanno portato il Milan in testa della classifica, e il Milan con una grande concretezza. Devo dire che alle scelte io accompagnerei, da parte di Allegri, un invito a stare calmi se potete ai 3-4 di centrocampo, perché non sempre gli può andare bene dal punto di vista delle decisioni arbitrali, no? Nel senso che ieri sera è stato lo stesso Allegri bravissimo a espellere Gattuso a fine primo tempo, no? Lo si è capito chiaramente, perché se metti Pirlo in quel ruolo di rottura, diciamo pure, Pirlo tra l'altro non al massimo della salute fisica, vuol dire che l'uscita di Gattuso è stata in un certo senso obbligata. Quando è un allenatore a togliere un giocatore che avrebbe dovuto togliere l'arbitro, non è mai secondo me un bel segno, per l'arbitro intendo dire. Giuseppe da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dottor Garanzini, volevo proporle 3 indizi per vedere se fanno una prova. Sì. L'anno scorso di questi tempi il Liverpool di Benitez era già fuori dai giochi scudetto in Premier League. Sì. Il secondo indizio è nella computo di Champions, perché l'abbiamo preso per la Champions, sembra quasi, no? Andata col Tottenham si regala un irriconoscibile Mike Conn sulla fascia Gareth Bale. Al ritorno non si pensa a nessuna alternativa e gli si ripropone a Gareth Bale sempre un Mike Conn che era addirittura più sconcertante dell'andata. Terzo ed ultimo indizio, dobbiamo ringraziare Carletto Ancelotti e lo stato stuporoso della sera di Istanbul se quest'uomo ha vinto una Champions. Beh, mi piacciono di più i primi due, insomma, il terzo lo trovo un tantinello più gratuito, diciamo lo trovo un pochino più di routine. In effetti quelle due riflessioni, io nel terzo ci avrei messo Materazzi, sinceramente, se posso dire, ci avrei messo questa scelta di ieri sera che trovo proprio tecnicamente, tatticamente, emotivamente, insomma, incomprensibile, perché non ha senso, perché non puoi proporre Materazzi che non gioca da chissà quando contro il totem degli avversari, insomma è una scelta completamente sbagliata proprio, ma sbagliata da tutti i punti di vista. Riccardo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Ascolti, un'informazione, cioè volevo capire una cosa, se è vero dal mio punto di vista, quindi volevo una conferma o no. Sono tifoso dell'Inter, a parte il derby ieri sera è stato bruttissimo, sia quello che ha giocato l'Inter che quello che ha giocato il Milan. E inoltre, secondo me, il problema dell'Inter ora è la stanchezza di giocatori che hanno dato tutto l'anno passato, anzi negli ultimi due anni, e soprattutto che qualcuno si deve essere montato la testa. Vedi le risposte che ha dato Chivu a Roma, Benitez, sì. Mike Conn. Io mi domando se qualche atteggiamento di Snyder, direi, anche in campo, così a occhio, mi sembra di ricavare, e non solo. Quindi lei dice? Che secondo me il problema fondamentale è che l'unica soluzione potrebbe essere quella del presidente di prendere in mano la situazione e di riprendere i giocatori e dire bisogna ritornare all'anno passato mentalmente, cioè bisogna lavorare di gruppo, non singolarmente, perché sembra che ognuno voglia fare il suo e fatto il suo tutti sono a posto. E invece non si gioca così a pallone, si gioca in gruppo e l'anno scorso con Mourinho è stato fatto. Mm-hmm. Sì, certo, con Mourinho è stato fatto, qualcuno continua a rimpiangere Mourinho, credo che tutti rimpiangano Mourinho dal punto di vista dei risultati, è soltanto il caso di ricordare ogni tanto, perché poi passando il tempo si tende a cambiare le versioni, che nessuno ha mandato via Mourinho, né dall'Inter né dal... cioè è stato lui, voglio dire, che sapendo bene di aver infilato 3 gettoni nella slot machine e di essere caduto da quante monetine gli sono arrivate addosso, insomma, ha capito davvero giocatore che era il momento di lasciare, quindi... questo giusto per ristabilire, no? Un minimo di verità storica, perché le garantisco che per esperienza glielo garantisco, nel giro di un annetto al massimo, ma forse anche meno, sarà l'Inter che ha mandato via Mourinho, cosa che insomma oggettivamente non risulta questo granché. Notizie di giornata in attesa, appunto, perché c'è un piccolissimo problema su ascoltatori. Luca di Montezemolo, non mi dimetto, lo ha appena dichiarato dopo il disastro finale di ieri della Ferrari, che poi in relazione ad alcune polemiche politiche da subito scatenate da ieri da una parte politica, ha dichiarato: qualsiasi dichiarazione per mera speculazione politica non scalfisce minimamente lo straordinario impegno e la capacità degli uomini e donne della Ferrari, di cui rimango orgoglioso. Torniamo a qualche numero del campionato, perché il Napoli ieri in un sol colpo ha perso due primati, quello di unica squadra che aveva sempre segnato in tutte le partite e quello di unica squadra ancora imbattuta in trasferta. Dopodiché due triplette, le prime di stagione insieme, e se uno è non un debutto, perché Pastore ormai è un giocatore affermato, ma insomma è da un certo punto di vista una novità, perché Pastore è un emergente di assoluto valore internazionale, così a occhio e croce, quella di Natale invece è un, un grande ritorno. L'altro anno quest'ora era capocannoniere con 9 gol, era soltanto a quota 2 fino a ieri e sembrava che sembrava in disarmo lui e un po' l'Udinese, invece l'Udinese è risalita come in classifica e lui da ieri i suoi 5 gol in 12 partite comunque li ha segnati. C'è Enea dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, ciao Gigi. Buongiorno. Da un oltrepò uggioso. Sì. Vorrei fare un'osservazione sull'Inter. Naturalmente noi un momento di pace non possiamo mai godercelo, ma sarà il destino che ci vuole così. Però una cosa bisogna che le diciamo, no? Perché non ho capito. Che... Cioè lei è interista? Sì. E in questi 4 anni non ha mai avuto un momento di pace? Sì, no, ma da non goderselo mai fino in fondo, perché noi siamo... Perché non siamo capaci allora, evidentemente, mi scusi. Comunque volevo dire semplicemente questo, noi dovremmo un po' guardare anche quello che ci capita, no? Perché quando vinciamo una Coppa dei Campioni e pochi giocatori hanno la fortuna di poterla alzare quella Coppa, non l'hanno ancora posata a terra che già chiedono l'aumento. Io credo che questo ce lo insegnano anche le grandi aziende, di personaggi così prima te ne liberi e meglio è, anche se riconosciuti grandissimi campioni, l'aumento può aspettare anche 15 giorni a chiederlo, perché poi si crea il malumore negli spogliatoi e lo vediamo, si creano poi gli infortuni, che sarà anche sfortuna, quello che si vuole. Però ma io non credo che ci sono tante componenti. Quando una squadra forte come l'Inter vive una crisi così profonda, le ragioni sono tante, però non è che possiamo metterci a confondere gli aumenti che fanno venire gli stiramenti, anche se fanno rima, non credo che c'entrino questo granché. C'entra un malessere diffuso, generale, un sacco di errori fatti un po' da tutti. Quando arrivano questi momenti sbagliano la società, sbagliano i tecnici, sbagliano i giocatori, sbagliano l'ambiente intero, però insomma dividendole però le responsabilità, non facendone un minestrone. Stefania scrive: non è possibile, ieri il Milan ha vinto meritatamente con l'Inter e lei lancia frecciate contro l'arbitro, ma Tagliavento non era il miglior arbitro italiano, la smetta per favore e faccia parlare un po' anche i tifosi del Milan ogni tanto. Stefania, il primo che chiama prende la linea, questo glielo garantisco, e comunque non ne posso rispondere io, di questo ne risponde Rosa, che è la bravissima operatrice del centralino ormai da un sacco di anni. Se le risulta che io abbia detto in questo frattempo che il Milan non ha vinto meritatamente, insomma, i casi sono due: o io non so più cosa dico, oppure lei ascolta soltanto quello che vuole. Frecciate contro l'arbitro non sono frecciate, sono io dico errori, dico dubbi, mi pare abbastanza documentati. Era il miglior arbitro italiano fino a 2-3 domeniche fa, poi aveva sbagliato già la penultima partita e secondo me ha sbagliato abbastanza quella anche di ieri sera, è partito benissimo, perché comunque dopo 3 minuti e qualcosa non è facilissimo dare un rigore in un derby, per netto che sia. Poi sulla questione disciplinare, secondo me qualcosina ha sbagliato, e se per caso aveva perdonato in eccesso Gattuso nel primo tempo, poi è stato forse un tantinello severo con Abate, che si è cercato sto gare, però Pande aveva fatto più di lui. Ma in ogni caso un'entrata come quella di Ibra non può non finire con un cartellino rosso, perché sennò davvero cambiamo genere di sport, dal calcio a che cosa. Sono in colpevole ritardo, sentiamo come va sulle strade. Piero Ferrari, il figlio del Drake, il figlio di Enzo Ferrari, ribatte alle accuse arrivate ieri dalla Lega Nord, in particolare da Calderoli, dopo la sconfitta, dicevo prima il disastro, dopo il disastro Ferrari dell'ultima gara di ieri. Sono stupito e amareggiato, ha detto Piero Ferrari, per certe dichiarazioni che alcuni politici e un ministro della Repubblica hanno rilasciato dopo la gara di ieri. Nella mia vita in Ferrari non è mai successo che la politica intervenisse nei momenti belli e brutti della nostra vita sportiva, e vorrei che fosse sempre così. Se poi vogliamo vedere, ha detto ancora Piero Ferrari, quanto la Ferrari ha fatto nel mondo per l'immagine dell'Italia, posso solo dire senza tema di smentita che è sicuramente molto più di quanto abbia fatto una certa politica. Una risposta molto simile è arrivata da Luca di Montezemolo, che a Calderoli ha risposto: quando lo statista Calderoli nella sua vita avrà realizzato l'1% di quanto fatto in questi anni dalla Ferrari per l'Italia in termini industriali e sportivi, a quel punto meriterà pure una risposta. Simone da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Galanzini, volevo tornare un secondo ancora sul derby, tifoso interista. Sì. Lei ha evidenziato la bestemmia tattica di Materazzi, ex giocatore centrale, però io vorrei anche evidenziare il signor Ramiro Cordoba a destra. Sì, che è un errore di conseguenza, insomma. Assolutamente, perché la coppia centrale doveva essere Cordoba, Lucio. Lucio su Ibrahimovic e così. Non è difficile il calcio, in effetti. Sa cosa è difficile, però? È difficile fidarsi di Santon, perché quando Benitez, la partita precedente, si è fidato di Santon, questo non l'ha beccata mai. Perché è anche vero che ci sono dei ragazzi che adesso non dico siano eterne promesse, perché Santoro ha cominciato ieri, insomma, però che non sempre poi mantengono le promesse o rispondono alle attese. Credo comunque che insomma, prima di fare una bestialità come quella di ieri sera, insomma, ci sarà pure un altro centrale nella primavera dell'Inter, oppure un altro esterno e inserire Cordoba al centro. Secondo me ha ragione lei, cioè è un errore da matita blu, non da matita rossa. Fabrizio, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, nell'ultima finale di Coppa del Mondo mi pare sarà stato un altro intervento alla Karate Kid come quello di Ibrahimovic di ieri sera, no? Che anche in quel caso non è stato sanzionato. Sì. Ora io mi domando, già due volte in pochi mesi, in partite importantissime con arbitri di eccellenza, che un intervento del genere non viene sanzionato. Ora mi domando, ho capito male il regolamento io? No. O sono gli arbitri un po'. L'ha capito. Altri 10 secondi, volevo dire un'altra cosa sul comportamento inqualificabile di alcuni giocatori. Prima parlavate di Totti, no? Che si considerano dei professionisti. Allora io dico, ma questi grandi professionisti un minimo di psicologia ce l'hanno? Sì, oddio. Adesso io non esagererei con questa storia di Totti che zittisce una curva, cosa. E Totti in vita sua ha fatto di peggio, e almeno da questi microfoni è stato sempre la cosa è stata sempre sottolineata a dovere, non a piacere, ma a dovere. Adesso quello ha fatto l'altra sera, insomma, ho visto, sinceramente ho visto e ricordo di peggio, mentre invece rischiavo di non ricordare l'appuntamento con il Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 15 novembre 1964, il Milan di Lidl fa suo il derby numero 69 con un perentorio 3-0. Protagonista principale dell'impresa è il mediano Giovanni Lodetti, che smette i panni del gregario di Rivera per indossare quelli del goleador. Lodetti segna le prime due reti, mentre il sigillo sul successo rossonero lo mette il brasiliano Amarildo. Il successo nel derby consente al Milan di consolidare il proprio primato in classifica, aumentando a 3 lunghezze il distacco dall'Inter di Herrera. Ma nel girone di ritorno i nerazzurri saranno protagonisti di una grande rimonta, che li porterà a vincere il 9° scudetto. Vero, Salvo, chiude Salvo dalla provincia di Catania, 30 secondi, dica buongiorno. Sì, buonasera, io sono entrato in trasmissione da poco, quindi ho sentito solo parlare del derby di Milano. La mia è una domanda, la regola per il tempo concesso per la punizione alla Roma, cosa dice? Ecco, questo io purtroppo non la conosco bene. Ricordo però di un Catania dell'anno scorso, se non sbaglio, che l'arbitro durante il tragitto, chiamiamolo così, tra virgolette, che la palla faceva per andare in gol, ha fischiato la fine. Non ho abbastanza memoria per ricordare questo episodio, Salvo, se così è sarebbe incredibile, io di fatti così per tranquillità non ci credo, ma insomma ne parliamo semmai domani, perché rispetto dei tempi innanzitutto. Grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.